Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. C'erano momenti, però, che Malnate sembrava quasi dimenticarsi della mia presenza. Erano quelli in cui rievocava con Alberto gli anni di Milano, le comuni amicizie maschili e femminili di allora, i ristoranti che avevano l'abitudine di frequentare assieme, le serate alla Scala, le partite di calcio all'Arena o a San Siro, le gite invernali in montagna e in riviera. Avevano fatto parte entrambi di un gruppo, per essere accolti nel quale, pareva, era indispensabile un solo requisito: l'intelligenza, il disprezzo per ogni forma di provincialismo e di retorica. Erano gli anni della loro più bella gioventù, gli anni della Gladys, una ballerina del varietà che si esibiva periodicamente al Lirico ed era stata per qualche tempo l'amica di lui, Giampi, e poi, incapricciatasi di Alberto, che d'altronde non ne aveva mai voluto sapere, aveva finito col piantarli in asso tutti e due. Non era niente male, la Gladys, raccontava Malnate, allegra, di compagnia, in fondo disinteressata e convenientemente puttana, come è giusto che sia. Non ho mai capito perché Alberto l'abbia sempre respinta, povera Gladys, disse una sera, improvvisamente ammiccandomi, e poi tornando a guardare Alberto. Coraggio, da allora sono passati più di 3 anni, ci troviamo a quasi 300 chilometri di distanza dal luogo del delitto, vogliamo finalmente metterle, le carte in tavola? Se non che Alberto si schermiva, arrossendo, e le carte in tavola, a proposito della Gladys, non furono messe né in quella occasione né in altre. Gli piaceva il lavoro che era venuto a fare a Ferrara, ripeteva spesso. Anche Ferrara gli piaceva come città, non riuscendo a capire come mai io e Alberto potessimo considerarla come la consideravamo, una specie di tomba, cioè, o di carcere. La nostra situazione era particolare, senza dubbio. Però il nostro torto, al solito, era quello di ritenerci membri dell'unica minoranza che in Italia fosse perseguitata, senza renderci conto che ce n'erano parecchie altre di minoranze a soffrire come e più di noi. Gli operai dello stabilimento dove lui lavorava, ad esempio, cosa credevamo che fossero? Dei bruti senza sensibilità? Lui ne aveva conosciuti alcuni, anzi, che non soltanto non avevano mai preso la tessera, ma socialisti o comunisti, e per questo picchiati e oliati più volte, continuavano imperterriti a restare attaccati alle loro idee. Aveva partecipato a qualcuna delle loro riunioni clandestine, con la lieta sorpresa di trovarci, oltre che operai e contadini venuti apposta fin da Mesola e da Goro, anche 3 o 4 avvocati dei più noti in città. Prova questa che anche qui, a Ferrara, non tutta la borghesia stava dalla parte del fascismo, non tutti i settori di essa avevano tradito. Avevamo mai sentito parlare di Clelia Trotti, noi? No? Ebbene, si trattava di una ex maestra elementare, di una vecchietta che, a quanto gli avevano raccontato, da giovane era stata l'anima del socialismo locale, e lo era tuttora se, a 70 anni suonati, non c'era riunione a cui non intervenisse. Lui l'aveva incontrata e conosciuta appunto così. Dal suo socialismo di tipo umanitario alla Andrea Costa non si sarebbe potuto cavare granché, si capisce, però quanto ardore, quanta fede, quanta speranza in lei. Gli aveva ricordato anche fisicamente, specie negli occhi azzurrini da ex bionda, la signora Anna, la compagna di Filippo Turati, che lui aveva conosciuto molto bene da ragazzo a Milano, intorno al 22. Suo padre, avvocato, aveva fatto insieme con la coppia Turati quasi 1 anno di prigione nel 98. Intimo di tutti e due, era rimasto dei pochi che la domenica pomeriggio osassero continuare a visitarli nel loro modesto appartamento, in galleria. E spesso lui ce lo accompagnava. No, per carità, Ferrara non era per niente quella specie di galera che uno, a sentire noi, poteva pensare che fosse. Certo, a guardarla dalla zona industriale, chiusa come appariva nella cerchia delle sue vecchie mura, la città era facile che desse, particolarmente nei giorni di brutto tempo, un'impressione di isolamento. Attorno a Ferrara, tuttavia, c'era la campagna, ricca, viva, operosa, e in fondo alla campagna, a levante, a soli 40 chilometri di distanza, il mare, con spiagge deserte, orlate di stupende foreste di lecci e pini, il mare, già, che è sempre una gran risorsa. Ma, a parte questo, la città stessa, a entrarci dentro, come lui aveva deciso di fare, a osservarla da vicino, senza prevenzioni, racchiudeva, come ogni altra, tali tesori di rettitudine, di intelligenza e di bontà che solamente dei ciechi e dei sordi, oppure degli aridi, avrebbero potuto ignorarli o misconoscerli. Nei primi tempi Alberto annunciava di continuo la propria imminente partenza per Milano. Poi, a poco, smise di parlarne, e quella della sua tesi di laurea divenne insensibilmente, per me e forse per lo stesso Malnate, una questione imbarazzante, da girarci attorno con cautela. Non ne discorreva lui e, si capiva, desiderava che anche noi lasciassimo perdere. Come ho già accennato, i suoi interventi nelle nostre discussioni erano rari e sempre irrilevanti. Stava dalla parte di Malnate, su questo non c'erano dubbi, però da gregario, senza assumere mai la minima iniziativa. Non lasciava con gli occhi l'amico un istante, lieto se trionfava, preoccupato se, viceversa, ero io a profilarmi vincitore. Per il resto taceva, limitandosi a uscire ogni tanto in qualche esclamazione, qualche risatina, qualche raschiatina di gola. Ah, questa è bella poi. Però, sotto certi aspetti, un momento, vediamo con calma. Perfino fisicamente tendeva a defilarsi, a sparire, a cancellarsi. Io e Malnate sedevamo in genere di fronte, al centro della stanza, uno sul divano e l'altro su una delle due poltrone, col tavolino in mezzo e stando ambedue bene in luce. E una volta seduti non ci alzavamo in pratica che per recarci nel piccolo bagno attiguo alla camera da letto, oppure per andare a scrutare lo stato del tempo attraverso i vetri del largo finestrone orizzontale che si apriva sul parco. Alberto, al contrario, preferiva restarsene laggiù in fondo, al riparo dietro la doppia barricata dello scrittoio e del tavolo da disegnatore. Più spesso, tuttavia, lo vedevamo girellare qua e là per la stanza, in punta di piedi, i gomiti stretti ai fianchi. Sostituiva uno dopo l'altro i dischi del radiogrammofono, attento sempre che il volume del suono non soverchiasse le nostre voci. Sorvegliava le ceneriere, provvedendo quando erano colme a vuotarle in bagno. Regolava l'intensità delle luci indirette. Chiedeva sommessamente se avessimo voglia di un altro po' di tè. Rettificava la posizione di certi oggetti. Aveva l'aria indaffarata e discreta del padrone di casa preoccupato di una cosa sola, che agli importanti cervelli dei propri ospiti sia consentito di funzionare nelle migliori condizioni ambientali possibili. Eppure, ne sono certo, a diffondere nella stanza quel senso di vaga oppressione che, entrandoci, avevo subito avvertito, era soprattutto lui, col suo ordine meticoloso, con le sue cure assidue e ossessive. Quando, per esempio, nelle pause della conversazione cominciava a illustrare, che so, le virtù della poltrona nella quale sedevo, il cui schienale, diceva, era stato studiato apposta per consentire alle vertebre la posizione anatomicamente più corretta e vantaggiosa, o quando, magari, offrendomi la borsa del tabacco da pipa perché vi attingessi, mi ricordava le varie qualità di trinciato che, secondo lui, erano indispensabili perché fosse ottenuto dalle nostre rispettive pipe l'ottimo dei rendimenti, tanto di trinciato dolce, tanto di forte, tanto di Maryland, o infine quando, per ragioni che non erano mai ben chiare, note a lui solo, annunciava sorridendo la temporanea esclusione di uno o due degli altoparlanti preposti alla diffusione del suono del radiogrammofono. In ognuna di queste circostanze, lo scatto di nervi, la ribellione incontrollata erano da parte mia sempre in agguato, sempre lì lì per scoppiare. Una sera, anzi, non mi riuscì di trattenermi. «Certo», gridai, rivolto a Malnate, «il suo atteggiamento dilettantesco, sostanzialmente da turista, gli permetteva di assumere nei riguardi della nostra città un'indulgenza, una longanimità che gli invidiavo. Però come giudicava lui, che parlava tanto di tesori di rettitudine, di intelligenza e di bontà, un caso successo a me, sì, proprio a me, appena poche mattine avanti? Avevo avuto la bella idea, cominciai a raccontare, di trasferirmi coi miei libri e con le mie carte nella sala di consultazione della biblioteca comunale, in via Scienze, un luogo che, negli ultimi anni, avevo bazzicato spessissimo, ma dove mi conoscevano fin dall'epoca del ginnasio, intendiamoci bene, dato che là, appunto, ero solito riparare ogni qualvolta un'incombente interrogazione di matematica mi consigliava di marinare la scuola. Era quella una seconda casa per me, dove tutti, specie da quando mi ero iscritto a lettere, mi avevano sempre colmato di gentilezze. Da allora il direttore, dottor Ballola, aveva cominciato a considerarmi del mestiere, per cui non c'era volta che, scorgendomi in sala, non venisse a sedersi accanto a me e non mi mettesse a parte dei progressi di certe sue ormai decennali ricerche attorno al materiale biografico dell'Ariosto custodito nel suo studiolo particolare, ricerche con le quali si riprometteva, era lui a dirlo, di superare decisamente i pur cospicui risultati raggiunti in questo campo dal catalano. E cosa dire dei vari inservienti? Essi si comportavano nei miei confronti con tale confidenza e familiarità da dispensarmi solitamente dalla noia di riempire l'apposito modulo per ogni volume richiesto in lettura, nonché da consentirmi, nei giorni di scarso pubblico, di fumare addirittura qualche sigaretta. Dunque, come dicevo, quella mattina m'era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Se non che avevo avuto appena il tempo di sedermi ad un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori dalla borsa di pelle quanto mi occorreva, che subito uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui 60 anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pasta asciutta e incapace di mettere insieme due parole se non in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi di andarmene immediatamente. Facendo rientrare il pancione, tutto impettito, riuscendo perfino ad esprimersi in lingua, l'ottimo Poledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi, per cui aveva ripetuto facessi senz'altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. La sala di consultazione quella mattina era particolarmente affollata di ragazzi delle medie. La scena era stata seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di 50 paia d'occhi e da altrettante paia d'orecchie. Ebbene, anche per questo, seguitai, non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo libri e carte, rimettere il tutto nella borsa e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d'ingresso. Va bene, quel disgraziato di Poledrelli non aveva eseguito che degli ordini, però stesse molto attento, lui, Malnate, se per caso gli fosse capitato di conoscerlo. Non era escluso che anche Poledrelli appartenesse alla cerchia della maestra Trotti. Stesse bene attento, lui, a non lasciarsi ingannare dalla falsa apparenza di bonarietà di quel suo faccione plebeo. Dentro quel petto, vasto come un armadio, albergava un cuoricino grande così, ricco di linfa popolare, d'accordo, ma per niente fidato. E poi, incalzai. Non era perlomeno fuori di posto che lui, Malnate, venisse adesso a far la predica, non dico ad Alberto, la cui famiglia si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me, che al contrario ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi fiduciosamente, a mescolarsi con gli altri in tutto e per tutto. Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del fascio nel 19. Io stesso ero appartenuto fino a ieri al GUF. Insomma, eravamo sempre stati della gente molto normale, noi, addirittura banale nella sua normalità, per cui mi sembrava davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un comportamento eccezionale. Convocato in federazione per sentirsi annunciare la propria espulsione dal partito, espulso quindi dal circolo dei commercianti come indesiderabile, sarebbe stato veramente strano che mio padre, poveretto, opponesse a un simile trattamento un volto meno angosciato e smarrito di quello che gli conoscevo. E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all'università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble, e Fanny, mia sorella, appena tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vigna Tagliata. Anche da loro, strappati bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d'infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d'eccezione? Lasciamo perdere. Una delle forme più odiose di antisemitismo era precisamente questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all'ambiente circostante, lamentarne l'opposto, che fossero tali e quali agli altri, cioè nemmeno un poco diversi dalla media comune. M'ero lasciato trasportare dall'ira, uscendo alquanto dai termini del dibattito, e Malnate, che era rimasto ad ascoltarmi attentamente, non mancò alla fine di farmelo notare. Antisemita lui, borbottava. Era la prima volta, francamente, che gli toccava di sentirsi rivolgere un'accusa simile. Tuttora eccitato, stavo già per ribattere, per rincarare la dose. Ma in quell'attimo, mentre passava dietro le spalle del mio avversario con la scomposta rapidità di un uccello spaventato, Alberto mi lanciò un'occhiata implorante. «Basta, ti prego», diceva quello sguardo. Che egli, di soppiatto dall'amico del cuore, facesse una volta tanto appello a quanto di più segreto c'era tra noi due, mi colpì come un evento straordinario. Non replicai, non dissi altro. Immediatamente le prime note di un quartetto di Beethoven suonato dai Busch si levarono nell'atmosfera fumosa della stanza a suggellare la mia vittoria. Quella sera, comunque, non fu importante soltanto per questo. Verso le 8 si mise a piovere con tale violenza che Alberto, dopo una rapida consultazione telefonica in gergo, probabilmente con la madre, ci propose di restare a cena. Malnate si dichiarò ben lieto di accettare. Cenava di solito da Giovanni, raccontò, solo come un cane. Non gli pareva vero di poter passare una serata in famiglia. Anch'io accettai. Chiesi però di telefonare a casa. «Ma naturalmente!» esclamò Alberto. Mi sedetti dove d'abitudine sedeva lui, dietro lo scrittoio, e formai il numero. Aspettando, guardavo di lato, attraverso i vetri della finestra rigati di pioggia. Nel buio fitto, le masse degli alberi si distinguevano appena. Di là, dal nero intervallo del parco, chissà dove, baluginava un piccolo lume. Rispose finalmente la voce lamentosa di mio padre. «Ah, sei tu?» chiese. Cominciavamo a stare in pena. «Di dove telefoni?» «Rimango fuori a cena», risposi. «Con questa pioggia?» «Appunto. Sei ancora dai Finzi Contini?» «Sì. A qualunque ora torni a casa, passa un momento da me, mi raccomando. Tanto non riesco a prendere sonno, lo sai». Posai il ricevitore e alzai gli occhi. Alberto mi guardava. «Fatto?» chiese. «Fatto». Uscimmo tutti e tre nel corridoio. Attraversammo varie sale e salette, scendemmo giù per uno scalone ai piedi del quale attendeva Perotti in giacca e guanti bianchi, e di qui, direttamente, passammo nella sala da pranzo. Il resto della famiglia vi si trovava già. C'era il professor Ermanno, la signora Olga, la signora Regina e uno degli zii di Venezia, il tisiologo, il quale, visto entrare Alberto, si alzò, gli venne incontro, lo baciò su entrambe le gote, dopodiché, mentre gli abbassava distrattamente col dito l'orlo di una palpebra inferiore, cominciò a raccontargli per quale ragione si trovasse lì. Era dovuto andare a Bologna per un consulto, diceva, e poi, sulla via del ritorno, aveva pensato bene di fermarsi a cena, fra un treno e l'altro. Quando entrammo, il professor Ermanno, la moglie e il cognato sedevano davanti al camino acceso, con Yor sdraiato per quanto era lungo ai loro piedi. La signora Regina sedeva a tavola, invece, proprio sotto il lume centrale. È inevitabile che il ricordo della mia prima cena nella Magna Domus, eravamo ancora in gennaio, mi pare, tenda un poco a confondersi in me coi ricordi delle molte altre cene a cui partecipai a casa Finzi Contini nel corso dello stesso inverno. Rammento con strana precisione, tuttavia, che cosa mangiammo quella sera, e cioè una minestra di riso in brodo e fegatini, polpettone di tacchino in gelatina, lingua salmistrata con contorno di olive nere e gambi di spinaci in aceto, una torta di cioccolata, frutta fresca e frutta secca, noci, nocciole, uvetta, pinoli. Rammento altresì che, quasi subito, non appena ci fummo seduti a tavola, Alberto prese l'iniziativa di riferire alla famiglia la storia della mia recente estromissione dalla biblioteca comunale, e che una volta di più mi stupì lo scarso stupore suscitato nei quattro vecchi da tale notizia. I successivi commenti sulla situazione generale e quelli sul duo Ballola-Polidrelli, richiamato ogni tanto in causa per tutta la durata del pranzo, non furono infatti, da parte loro, neanche molto amari, ma, al solito, elegantemente sarcastici, quasi allegri. E allegro, decisamente allegro e soddisfatto, era più tardi il tono di voce con cui il professor Ermanno, presumi sotto braccio, mi propose di approfittare dall'ora in poi liberamente, come e quando volessi, dei quasi 20.000 libri di casa, parte notevole dei quali, mi disse, riguardava la letteratura italiana del pieno e tardo Ottocento. Ma ciò che più mi colpì, fin da quella prima sera, fu senza dubbio la sala da pranzo, in sé, coi suoi mobili di legno rossastro, in stile floreale, col suo vasto camino dalla bocca arcuata e sinuosa, quasi umana, con le sue pareti foderate di cuoio, tranne quella, interamente a vetri, aperta sulla buia tempesta del parco, come l'oblò del Nautilus, così intima, così riparata, starei per dire così sepolta, così adatta al me stesso d'allora, soprattutto, adesso lo capisco, a proteggere quella specie di pigra brace che è tante volte il cuore dei giovani. Barcando nella soglia, eravamo stati ricevuti, tanto io quanto Malnate, con grande amabilità, e non solamente dal professor Ermanno, gentile, gioviale e vivace come sempre, ma perfino dalla signora Olga. Era stata lei a distribuire i posti a tavola. A Malnate era toccato quello alla sua destra, a me, dall'altro capo del tavolo, quello alla destra del marito, al fratello Giulio il posto alla sua sinistra, fra lei stessa, sorella e la vecchia madre. Anche quest'ultima, frattanto, bellissima nelle sue guance rosee, nei suoi candidi capelli di seta, più folti e più luminosi che mai, si guardava attorno, benigna e divertita. Il coperto di fronte al mio, completo di piatti, bicchieri e posate, sembrava lì in attesa di un settimo convitato. Mentre Perotti stava ancora girando con la zuppiera del riso in brodo, avevo domandato sottovoce al professor Ermanno a chi fosse riservata la sedia alla sua sinistra. E lui, anch'egli sottovoce, mi aveva risposto che niente, quella sedia non aspettava presumibilmente nessuno. Controllò allora al suo grosso omega da polso, scosse il capo, sospirò, essendo appunto la sedia che occupava di solito la sua Micol. Micol mia, come disse esattamente. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it